Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Buonasera, bentornati a Ethno Chic. Azul alla mia sinistra e Babe alla mia destra. Beh, buonasera a tutti. Buonasera. Ricordo che siete su Radio Città del Capo 94.7 oppure 96.25 megacicli se siete in area bolognese, ovviamente. Altrimenti magari siete in qualche parte remota del mondo e ci state ascoltando in streaming da rcdc.it. E in questo spazio, che vuole essere uno spazio aperto dove si parla di culture, di tradizioni musicali lontane, passate e presenti, e dalle sonorità rock della Grecia, dell'Epiro, a un passo nel passato e dalle parti della Transilvania. Thank you. questa era una registrazione di musica rumena dall'archivio Brailoiu, costituito in quel di Ginevra, dove proprio pochi giorni fa si sono svolti le Nuit du Labyrinthe, un festival, uno dei tanti festival di musica etnica tradizionale. Che... Beh, a sentire queste musiche io visualizzavo proprio le persone che ballavano, che si muovevano. Sì, infatti sono musiche di danza e che ancora ci sono, insomma, da quelle parti. E cambiano a volte gli strumenti, cambiano, ma la voglia di ballare comunque continua, a quanto mi dicono dal luogo, insomma, da fonti locali. E anche a volte, appunto, mescolando musiche di varie origini, come nel prossimo esempio. Questo era un tango registrato una quindicina d'anni fa in Moldavia per una collana di una ricerca che si chiamava L'ultimo momento, l'ultima ora, per documentare una tradizione che stava scomparendo, e in realtà, insomma, questo tango sembra che si gira il mondo e non scompare per nessun motivo. I tango in Moldavia proprio non avevo mai sentito. Infatti è una cosa particolare, ma sì. Le musiche viaggiano le persone, e con queste persone viaggiano anche le loro culture, che sono un bagaglio prezioso, un tesoro che, insomma, ci tiene legati, come il prossimo oro, che è una danza bulgara. Thank you. Siamo sempre su Etno Chic, musica di indicazione geografica protetta, e più protetta di così non si può dire, perché tutte musiche particolari che sinceramente io non li conoscevo molto. Sì, e da queste musiche che ci vengono direttamente dai paesi d'origine andiamo invece a come a Bologna si rivivono un po' queste musiche nell'interpretazione e negli arrangiamenti di musicisti locali, sia di chi qui a Bologna passa o per studiare o per vivere o anche solo per alcuni anni o addirittura trasferirsi a fare famiglia. E il primo esempio che facciamo sentire sono appunto i Lehigh Trio che vi eseguono questo brano Yiddish. Appunto, Lehigh Trio, Salvatore Sansone, Gianluca Fortini, Giovanni Tufano, un pezzo dei Diregelt, un pezzo di storia della musica klezmer qui a Bologna, che ha scritto pagine molto importanti e ancora continua a scriverle. E con il prossimo brano andiamo a dei musicisti che sono passati da Bologna e dalla Romagna, dalla Turchia, i Karagunes, e alcuni si sono anche fermati qui vicino, e vi facciamo sentire uno dei loro brani. Seni siamo Etno Chic, Nascita di Capo, è nella 94,7 o 96,25 MHz, oppure se volete sentire in stream, se non ci siete a Bologna o in Italia, come so che tanta gente mi sta sentendo anche dal Brasile. Ebbene, alla fine la radio ci permette anche appunto di spaziare anche da un punto di vista reale, insomma, come comunicazione. Punto di vista geografico, spaziale, ma questo grazie a delle radio un po' più avanzate rispetto alla modulazione di frequenza, grazie ai ponti radio digitali, e allo streaming, al web, insomma. È molto bello perché spaziamo noi e magari anche i nostri ascoltatori possono spaziare e magari possono anche dirci qualcosa, venire ospiti, chi lo sa. Eh sì, perché infatti la nostra idea è comunque di portare qui molti ospiti di queste che portano appunto le loro culture musicali o che sono ricercatori o che ci raccontano le loro storie, i loro viaggi attraverso le musiche del mondo e le culture. E chissà se ci ascolta, ma non credo perché è veramente lontano, Toronto è il Canada, Sepiderai Sadat, questa musicista persiana che è giovanissima, è stata alcuni anni qui a Bologna e che ho avuto la fortuna di conoscere per poi appunto trasferirsi. È una delle più importanti musiciste, cantanti e suonatori di tar, questo strumento a manico lungo, di cui adesso vi faremo sentire un brano. Thank you. sempre Radio Città del Capo, Etno Chic. Questa era Sepidera Issadat, cantante e suonatrice di tar persiana, Madadi che Shasme Mashat. Che significa? Questo non te lo so dire. Però almeno che cos'è un tar? Sì, il tar è uno strumento, un liuto a manico lungo, che è molto importante perché è suonato sia nella musica persiana sia un po', come dire, il padre di molti strumenti che poi troviamo anche nel Mediterraneo. E quindi insomma la musica persiana ha avuto un grande influsso su anche sulla musica araba, ma anche sulla musica appunto che è poi arrivata fino praticamente quasi da noi. E qui si va un po' a parlare di ricerche. Bologna, un'altra pagina importante è stato sicuramente il DAMS, il Dipartimento di Etnomusicologia, con Roberto Leidi, Nicky Staiti e tutti i vari studenti del DAMS, Tullia Magrini e il Festival Suoni dal Mondo, che per molti anni appunto ci ha portato musicisti da ogni parte del mondo, dall'Estremo Oriente alla Romania, alla Grecia, qui in Italia. Ricerche che comunque ancora continuano, per esempio in Marocco, dove appunto Staiti ha fatto proprio in questi anni una ricerca sul campo, sui riti femminili a Meknès, e quest'anno è stato presentato in Cineteca in anteprima questo lavoro, e praticamente 40 anni fa da quelle parti era stato anche Roberto Leidi. Adesso vi facciamo sentire una solo di Guimbri, un altro liuto, che in quelle occasioni venne registrato da Roberto Leidi in Marocco. Siamo su Etno Chic e qui abbiamo Vladimiro che ci sta dando una lezione su quello che è quello che è il programma effettivamente, perché questo viaggio, questa tipologia di musica che io particolarmente non li conosco molto. Questo tema del mare Mediterraneo come incrocio di culture sarà sicuramente un tema ricorrente delle nostre puntate qui a Etno Chic, cercando di portare il più possibile protagonisti sia che passano o passeranno per Bologna insomma a suonare, sia musicisti che appunto appassionati o ricercatori di queste musiche vorranno qui portarci i loro ascolti, le loro testimonianze. E così come è successo per esempio in questi anni con i musicisti cretesi che hanno appunto anche collaborato con i vari studiosi, Leidi, Magrini, Azzaroni, che hanno fatto le ricerche a Creta fin dagli anni 70, quindi Stelios Leinakis, Kostas Pakpadakis, i quali erano i continuatori di altri musicisti che di generazione in generazione sono passati questi repertori a ballo, e di cui facciamo sentire appunto questo esempio di Mavros al violino e Koutsourelis al lauto, musica da Creta occidentale. Musica cretese che ha nel centro del Mediterraneo proprio grande testimonianza di questi incroci e scambi tra Oriente e Occidente, a partire da questi strumenti, il violino portato dai veneziani, ma strumento che poi nelle sue origini ha un po' di sangue arabo, e il liuto che appunto arriva da Oriente, ma insomma ha fatto un suo giro per la Spagna. E andando ancora più a Oriente ci troviamo in Turchia, e si parla, finiamo vicino sulle rive del fiume Eufrate, e parliamo di musicisti che però non sono stati registrati in Turchia, ma sono musicisti che sono emigrati a Parigi e qui negli anni 70 hanno registrato i loro brani da cantastorie di villaggio. Qui abbiamo questo Ben Oldun di Osun Firat. Thank you. Başı para para dedim anıdalar Fırkat ile aşıp giden yine ben oldum Eller göçünü çekmiş de gider yaylaya Göçünü çekip de sarpa düşen yine ben oldum Ben oldum da garip eller ben oldum Ben oldum Ben oldum da suna boylu yar ben oldum Ben oldum Ben oldum da kara gözlü yar ben oldum Acıl kazasını da şanlar bilir Emir ahta vade yeterler ölür Neydem sevdiğim derde ne gelir Ayrılık defterini de yine yazan ben oldum Ben oldum da garip eller ben oldum Ben oldum Ben oldum da suna boylu yar ben oldum Ben oldum Ben oldum da garip eller ben oldum Taşıma yasınlar Bugün bana yarın size Ecel gelirse bu cana Başarısı bir bahane Ne mezar taşıma yazılsın bugün bana yarın size. Radio Città del Capo 94.7 96.250 e proseguiamo invece col repertorio del nostro paese, una volta molto diffuso nelle botteghe di barbier del centro sud Italia, un repertorio da ballo che risale ancora al Medioevo, saltarello e con le chitarre, i violini, i mandolini. Questo è stato registrato nella zona del Basso Lazio, nei Monti Lepini, non molti anni fa. Non in Medioevo. Io un barbiere canterino o un musicista non l'ho mai visto. Tu, Mariana? Io no, però questo ritmo è quello che mi porta alle immaginazioni mie da bambina della musica italiana. Perché quando ero bambina qualcosa di questo senso ci arrivava a noi. In Brasile, in Brasile. Il folklore come il barbiere con... No, noi il folklore, però come voi avete l'immaginario della samba brasiliana... Questo ritmo era un po' l'immaginario della musica italiana. Va bene, da me arrivava tante musica pop italiana, non dirò nomi. Toto Cotugno. Non dirò un po' di nome, però questo ritmo così mi riporta un pochino alla mia infanzia, stranamente. Magari erano anche ritmi degli immigrati italiani di 4-5 generazioni fa, anche in Brasile ce ne sono parecchi. Ma certamente. Eh sì. E anche forse meno. Perché anch'io ho conosciuto figli di immigrati in Brasile che erano nati in Brasile e appunto hanno fatto anche delle ricerche, hanno addirittura trovato canzoni molto antiche che qui ormai in Italia non conosce più nessuno, tra le comunità appunto di italiani della regione di São Paulo, per esempio. E sempre per stare in ambito lusofono, adesso andiamo quasi sulle sponde del Mediterraneo, dell'Atlantico volevo dire. Nel Mediterraneo andiamo all'Atlantico e nella musica cosiddetta regionale, che è la musica tradizionale portoghese delle campagne, che è stata riscoperta a partire dagli anni 60 da un corso, un musicologo corso che si chiamava Michel Giacometti, e però non si è fermata lì, perché i figli di questi musicisti che erano stati registrati negli anni 60 e 70 hanno continuato poi la tradizione, l'hanno naturalmente sempre un discorso di variazione e trasformazione, come tale è la tradizione. E qui invece ci ascoltiamo, registrato negli anni 2000, un vecchio musicista che ci fa questa Murinera. Posso usare? A proposito di folklore ed esportazione, uno associa al Portogallo il fado, no, Mariana? Sì, a me è la prima cosa che mi viene in mente di Portogallo, anche se, ripeto, io c'ho molta più influenza italiana, però il fado, sì, è subito quello che mi viene in mente, però non è fado. No, no, questa è musica regionale, proprio musica delle campagne, poi un fado lo sentiremo fra un po'. Anzi, andiamo a sentirlo subito, questo fado in mi minor di questo Armandini. Questa di fado. Fado strumentale, sì. E sempre per rimanere nell'ambito della musica strumentale, mentre ci avviamo verso questa chiusura di questa puntata, andiamo in India con un raga che Raga Kamavarchani, che viene fuori da una raccolta di registrazioni della Library of Congress curate da un certo Alan Lomax, che è forse l'esempio dell'etnomusicologo che appunto fa ricerche nel suo paese e in tutto il mondo. E questo è un piccolo omaggio che gli vogliamo dedicare. Con questa raga indiano vi andiamo ai saluti. Vladimiro, Azul e Babbe, beh, ci sentiamo mercoledì prossimo in diretta su queste frequenze e mi raccomando, se vi è piaciuto ascoltate, fate conoscere Ethno Chic. Ciao. gente di Orelli.